teatro senza fede. Oddio, mio padre, oddio, perché? Oddio, perché? Così parla la sentenza, vuole io di clemenza. Mormoio, mordeo prendi, è morte io voglio. Oddio, mia vita, oddio, oddio, pietà, oddio, pietà. Sei solo bello, sono pietà. Non so che fare, non mi aghi, io non so che fare.